140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco le protagoniste dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Arriva su Netflix la quarta stagione di Orange is the New Black, la serie record ambientata in un carcere femminile. In Italia, le star, Dasha Polanco e Uso Aduba. Do we feel the love? Yeah. We definitely feel the love from our audiences. It's been amazing doing this show the last four seasons. Se sentiamo quanto siamo amate? Sì, sentiamo davvero l'amore del nostro pubblico. È stato favoloso girare questa serie in queste quattro stagioni. Ogni volta che escono le nuove puntate sentiamo un grande sentimento attorno a noi. Se esci di casa, se vai a fare la spesa, magari incontri persone che hanno passato tutto il weekend a guardare le puntate di Orange is the New Black e ci fermano per parlare delle ultime puntate. Get those people who just maybe start watching Orange and they want to talk to you all about season one because. Ma a volte incontri anche persone che hanno appena cominciato a guardare la serie e vogliono parlarti ancora della prima stagione. Per me è un'espressione d'amore. It always feels like love, I think. Penso che in tanti, forse tutti, reagiscano come ho reagito io guardandovi dicendo ma che belle, perché diciamo che Orange is the New Black non vi permette di esprimere al meglio la vostra bellezza. Well, I think it definitely... I think it does highlight femininity, just a side of femininity that we don't often get to see portrayed on television. I think women are. Credo che sottolinei comunque la femminilità, ma in un modo diverso, che mostri un lato della femminilità che non vediamo spesso in televisione. Credo che la bellezza delle donne non sia solo nel loro semplice aspetto fisico, ad esempio nella forza di sopravvivere. Credo che la creatrice della serie, Jenji Kohan, abbia voluto mettere in luce questi elementi. Vogliamo riprenderci parti della nostra femminilità senza appoggiarci sull'apparenza, arrivando all'essenza di quello che siamo come persone e più in particolare concentrandoci sul lavoro. Concentrating on the work. So it is fun to come and step out and see this side of ourselves, but. È divertente uscire dalla serie e mostrare anche come siamo veramente, ma è anche bello vedere queste donne che nel penitenziario di Litchfield sviluppano e scoprono la loro bellezza dopo che viene strappata loro una parte importante della loro identità. In Litchfield develop and discover their identity and their beauty after they've been stripped of a lot of their identity. Yeah, I completely agree with Uso. Sono del tutto d'accordo con Uso. La bellezza sta negli occhi di chi guarda. Credo che Jenji Kohan, la troupe, il cast, siamo tutti concentrati nel creare una storia con cui il pubblico possa sentirsi in contatto profondo. Posso vedermi con quei panni mortificanti o nel mio aspetto normale. Penso che alla fine l'aspetto fisico sia poco importante. What we're doing is breaking boundaries and displaying the truth that women can also have empowering stories, that women are. Penso che quello che stiamo facendo è abbattere le barriere e mostrare la verità, che anche le donne possono avere storie forti, possono creare storie forti, stare in primo piano e non per forza dietro a un uomo. Possiamo anche stare davanti a un uomo o semplicemente al suo fianco. Behind a man, we should also be in front or a side. That's correct. Benvenute a Litchfield! Ma guardati, bionda, tu che hai fatto? Ho letto che non si dovrebbe chiedere questo. Hai studiato per andare in prigione? Ho trasportato una valigia di narcodollari. Una volta, 10 anni fa. Tu ne sapevi qualcosa? No, ho omesso un'amante lesbica che gestiva un giro di droga internazionale. Immaginate la mia sorpresa. È come andare agli Hamptons, però orribile. Non immaginavo che la prigione fosse così. Che posto di merda! Ora sì che ci capiamo! Il potere del femminile, ma anche il potere della diversità. Diversity? Yeah. Io e Uso ne parliamo spesso. Ieri abbiamo incontrato qui in Italia dei fan giovanissimi tra i 13 e i 20 anni. È bello sentire ragazzi italiani così giovani che riescono a vedere donne così forti e sentirsi vicino a loro. Non lo diciamo noi, sono i ragazzi che ce lo dicono. Non serve spiegare alle persone che dovrebbero vedere la serie perché si parla di donne, di diversità di genere, di colore, di cultura. To Suzanne. They to Crazy Eyes, they could connect to Sophia, and yet they're from Italy. Quello che è importante è che si sentono vicini a Susanna Occhipazzi o a Sofia. Anche se sono italiane, hanno 15 anni, magari sono bionde con gli occhi azzurri, sentono la vicinanza. Quello che è importante è la connessione emotiva, la connessione umana. The connection, the human connection. Netflix ha comunicato che Orange is the New Black è al top della binge scale, cioè I understood that. Yeah. Tutti lo vogliono vedere subito. What do you think about it? I think it's great. I mean, you know, it's humbling. You know, here's the thing. Credo che sia fantastico. È una cosa che quasi intimorisce. È successo persino a noi già dalla prima stagione. Eravamo stanchissime sul set, ma ogni giorno dopo le riprese andavamo a vedere le scene sui monitor. Cercavamo le sceneggiature per vedere come andavano a finire le storie. Stavamo lì, guardavamo anche le altre attrici al lavoro. Ed è successo anche nelle stagioni successive. Do their work because we so loved it and so enjoyed it and it's remained that way. Quando parte una nuova serie sentiamo l'entusiasmo di chi la vuole vedere tutta ad un fiato, ma è semplicemente l'entusiasmo che abbiamo noi sul set e quello che proviamo è gratitudine al massimo livello. It's just gratitude in to the 10th power. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con le star di Orange is the New Black, Dasha Polanco e Uso Aduba. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.